Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Prova a cercare il verticale dentro con il sinistro a piazzare. Si era visto che c'era lo spazio per Saúl che calcia col suo piede. 1-0 Spagna. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. Sandro si allunga troppo il pallone, lo fermano in due, rimane a terra Sandro. Poi addirittura c'è il... Questo è il secondo giallo, è il secondo giallo per Gagliardini, secondo giallo per Gagliardini. Quando succedono queste cose è normale che poi magari loro hanno cominciato ad avere un po' più il dominio del gioco, però con l'uomo in più era un po' tutto più semplice per loro. È molto rapido, cambia passo Asensio, pallone fuori per Saúl e sono tre. Finita. Siamo comunque contenti in parte, anche se usciamo, però usciamo a testa alta. Qualche rimpianto rispetto a questa partita, qualche sogno di poter arrivare in finale c'era stato? Sicuramente, penso che una squadra così meritasse la finale sicuramente, perché ci sono giocatori veramente forti che penso abbiano un futuro luminoso. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams where the city. Ascolterei Green Day per tutta l'ora, molto meglio lo sfondo del contenuto della partita di ieri sera. La Spagna ci ha suonati 3-1. Donnarumma, se è vero che le voci di mercato non hanno influito, c'è da preoccuparsi. Le voci che avete sentito sono quelle di Biagio, il CT di Calabria. Vi do un dato: 10 tiri nello specchio della porta, 6 gol subiti dall'oggetto del desiderio del Milan, di pare a sentire Raiola, di mezzo mondo. Allora, informazioni di servizio, no, prima le presentazioni, Giorgio Ruga, il nostro autore, Roberta Frisani oggi in regia, Edoardo Ravezzani in redazione. Pardo arriva alle 15, oggi parleremo naturalmente di quanto abbiamo visto ieri sera e ci facciamo ora spiegare da un nostro amico gli errori tecnici, l'errore tecnico di Donnarumma sul secondo gol subito. Poi avremo Emiliano Mondonico su questa Under 21 e su molto altro. Poi, oggi siamo al 28 giugno ragazzi, entro due giorni Inter e Roma arrivano a quella scadenza fatidica imposta dal fair play finanziario. Mi sembra che non ci siano ancora, anche perché ci sono notizie. Poi avremo dopo il GR appunto Pardo, Mister Condò con la sua intervista ad Allegri e l'anniversario, il decimo anniversario di forse dell'ultima bandiera rimasta al nostro calcio. Nando Orsi, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno. Allora, dicevo prima, Nando, se le voci di mercato non hanno influito, come sostengono Di Biagio, Calabria e tutto l'entourage azzurro, beh, c'è da preoccuparsi, perché Donnarumma non ha fatto un grandissimo europeo. No, non ha fatto un grandissimo europeo. Devo dire che a 18 anni sei ancora giovane per metterti sulle spalle tutta questa pressione che c'è stata in questo periodo. Sì. E non so se dipende, se il brutto europeo è dipeso da questo. Insomma, speriamo di sì. Nando, mi spieghi l'errore tecnico sul secondo gol? Cioè, vediamo questo tiro partire da 30 metri. L'errore tecnico di Donnarumma qual è? Ma guarda, Donnarumma in questi campionati europei ha preso tutti quanti i gol un po' da lontano, un po' a sotterra, un po' fuori posizione. Si fida molto della sua altezza, quindi spesso può stare anche un po' fuori posizione perché poi dopo ci arriva. Il problema è quando ti tirano da lontano, che tu non senti un po' la porta dietro, fai un passo indietro, nel momento che fai un passo indietro quello tira e tu non hai il piede di spinta per andare. Ma normalmente fai, devi fare un, io non lo so, non, normalmente devi fare un, cioè, devi fare un passetto laterale e poi, esatto, no? E poi andare, cosa che non ha fatto, e poi spingere, cosa che non ha fatto, esatto. Giusto? Il problema è, secondo me è perché a 18 anni ancora devi migliorare la tua tecnica, quindi per questo dico che a 18 anni ancora, oltre ad essere un bambino, sei un portiere che ti devi completare certo, su tante cose, certo, e quindi questo è il processo di crescita che un portiere deve fare. Il problema è che a 18 anni essere investito di così tanta popolarità non ti permette più di sbagliare, e quando sbagli a 18 anni hai ancora il dovere di poter sbagliare. Ma è chiaro, ci mancherebbe altro. Il problema è che adesso non ti danno più la possibilità di sbagliare. No, allora, il problema, Nando, è un altro. Allora, se rimani al Milan hai la possibilità di sbagliare, di crescere, sai, nessuno ti chiede nulla. È quello che ho sempre detto. Se certo, vai al Real Madrid, fai due errori così, tre errori così, ne fai uno come quello immagino che ha fatto con il Pescara. No, ti immagino, ti fischiano Cristiano Ronaldo, figurati esatto, Gigio Donnarumma che fine in panchina e da lì si alza quando Diani ne ha 28. Quindi adesso poi non era più semplice andare a firmare per il Milan, mettere una clausola del secondo anno, ma guarda, fare un anno e mezzo, due anni con il Milan, crescere anni, anche come presenza in Serie A. Bravissimo. Avere più esperienza, giocare in Europa League anche se non è la Champions. Questa e poi a 20 anni andare dove vuoi, perché tanto hai 15 anni di carriera. Io lo dico da mesi, poi facciano quello che vogliono. Esatto, ci mancherebbe altro, perché poi tra l'altro il Real Madrid, tutto quanto, Raiola, però è l'unico giocatore per il quale io mi sono un po' esposto anche su altre cose, dove secondo me la gestione è stata come di un giocatore grande, perché per esempio Keita, che è del 95, a 22 anni, però già c'è un'esperienza, quindi può fare. Ma Donnarumma a 18 anni e poi il ruolo che ha, che è il portiere, dove non puoi sbagliare, quindi sei sotto l'occhio dei difettori e quindi diventa difficile. Quindi ogni errore adesso non è più, vabbè, ma a 18 anni, ma devi andare a spiegare tecnicamente perché hai sbagliato. Tecnicamente certo, a 18 anni ancora devi migliorare. Ma devi avere la possibilità di esatto, commettere degli errori. Esatto. A quell'età devi avere la possibilità di esatto, commettere degli errori, di correggerti, di crescere. Ma il calcio adesso ma non è più così. Cioè, dopo Donnarumma, dopo questi Donnarumma, ai giocatori che baciano la maglia, che sono lascia stare queste cose. No, dico ci credo sempre poco, ci credo niente praticamente, capito? Quindi è un calcio dove devi andare per forza avanti subito. Nando, il mio idolo, sai chi è? Ibrahimovic, che si è slinguazzato mille magliette. Tutte le maglie. Ha fatto l'amore con mille maglie e poi... Sì. Ma è così che si fa, dai, è tutta, insomma, mi sembra tutta fuffa, retorica. Bravo Nando. Certo che da questa Under ci aspettavamo di più. Io dico, la partita di ieri sera è finita, secondo me, sull'espulsione di Gagliardini. Perché il primo tempo era stata anche equilibrata. A me è piaciuta l'Italia nel primo tempo. Forse più della Spagna, che è più forte di noi, che ha comunque giocatori che hanno giocato, che hanno un sacco di esperienza nel loro campionato. Però anche la nostra non è che c'ha poca esperienza, perché se tu vai a vedere le 70, le 100 partite in Serie A le hanno quasi fatte tutte, quindi l'esperienza la puoi avere. È ovvio che incontri la Spagna, noi andiamo sempre in difficoltà con la Spagna, perché ha un gioco che ci mette in difficoltà, cioè ci fa muovere tanto, ci fa muovere tanto dentro al campo. Quindi se tu non hai sempre le distanze, sempre la chiusura sull'uomo senza palla, se non scali bene, ti metto in difficoltà, perché poi l'uomo lo trovi, perché poi alla fine non, nel primo tempo non è che ci ha messo in tutta questa difficoltà, perché secondo me l'aveva preparata bene. Rimenano il pallone e tu sei posizionato bene come era l'Italia, non è che ti creano mai tirati in porta nel primo tempo. Sulla prima occasione ha fatto gol bellissimo, tra l'altro. Sì, è vero. E poi sull'espulsione di Gagliardini è finita la partita. Io sono andato a letto, poi l'ascoltavo, pareggia Bernardeschi, dura poco. Comunque è un peccato, no, anche perché È la prima volta che una nazionale under 21 viene seguita così tanto, ma perché sì. ha giocatori che il grande pubblico conosce. Proprio per questo motivo, perché è gente che ha giocato in Serie A, non ha fatto panchina in Serie A come normalmente capita. Nando, ti abbraccio, ti ringrazio, ci sentiamo nel corso di tutta l'estate. Ciao Nando Orsi. Tanto noi non andiamo in vacanza, siamo sempre qui tutta estate, tutti convocati, 800240024. Potete vederci anche sul web, pagina Facebook, Facebook e pagina internet di tutti i convocati, Radio 24 naturalmente. Ho detto giusto, Giorgio De Luca? No, ho sbagliato tutto. Vabbè, domani me lo scrivi. Traffico. Tutti convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Tutti convocati. Ho sempre preferito parlarne dopo l'europeo, sia l'altro biennio che questo. Mi era stato proposto, sempre aspettato. Qualche rimpianto di questi 4 anni con l'Under 21? Zero rimpianti. Abbiamo centrato l'obiettivo, era quello di rilanciare il calcio italiano. Direi che ci siamo riusciti, è normale che mancava la ciliegina sulla torta, quella di vincere un europeo. Non ci siamo riusciti, l'obiettivo era un altro, ripeto, e veniva condiviso con tutti quanti una possibilità di per arrivare in fondo. Però il nostro lavoro, lo ripeto, molto molto buono. Questo era Gigi Di Biagio che fa il bilancio del suo quadriennio con l'Under 21. Emiliano Mondonico, buongiorno. Buongiorno, sono convocato in una macelleria che si è trasformata in un ristorante. Sì. Stanno facendo delle fiorentine che qui così non pensano a venderle. Ma perché non farle assaggiare? Perché non mi porti mai? Non è che non vi porto mai, è che voi mi tralasciate. Ogni tanto così mi prendete vicino, poi dopo mi tralasciate, avete altri usi e costumi. Ma non dire sciocchezze, ti voglio bene come nessuno. Ma su quello non c'è il minimo dubbio. Senti, mi passi il macellaio? Assolutamente no. Assolutamente no, perché sono uscito. Dai, okay. Cosa faccio? Vado dentro, ti passo il macellaio. Non sono mica un opinionista. Io. Che tempo fa dalle tue parti? Dai, c'è turbolento. C'è turbolento? Piove? Non ancora, però turba. Perché turba è il nome del macellaio e perciò del locale. Digli che domani arrivo. Senti, no, domani basta che mi telefoni e arriviamo qui. Arriviamo qui in gruppo. Senti, vengo a fare le vacanze da te quando me le danno. Mi hanno detto che è meglio vestirti che darti da mangiare. Perciò non sono mica pardo, sono Carlo. Sono magro come un chiodo in questo momento. Ascolta. Detto che lì è meglio vestirvi che darvi da mangiare. Questo è quanto mi hanno detto i servizi segreti. E perciò va bene, vi porterò. Qui c'è il mercato al mercoledì. I cinesi, un abito proprio smoking, 15 euro. Però ve lo prenderò. Però no, smoking mi serve pochino. Piuttosto, l'Under 21 di ieri sera. Io ho detto prima, ma correggimi se sbaglio, perché lei, esperto sei tu. La partita di ieri sera è finita sull'espulsione di Gagliardini. Allora, Di Biagio ha parlato di torta. La torta era vincere l'europeo. Uh-huh. La ciliegina era magari un gol alla grande che ti fa vincere l'europeo. Cioè, io ho la mia filosofia sulle partite di calcio. Cioè, io da sempre, quando affrontavo una squadra più forte, cercavo di metterla in difficoltà. È chiaro che la metti in difficoltà cercandogli di creare problemi, ma nello stesso tempo senza rinunciare a fargli gol. Certo. Il discorso è un discorso di ieri sera. Non puoi giocare con la Spagna ed è la seconda volta, perché anche penso un Spagna-Italia, adesso non so se Prandelli o Conte, sì, abbiamo perso perché vogliamo giocare come la Spagna, ma non siamo perché la Spagna, vogliamo fare, certo, il tiki taka, perché ma vogliamo darle indietro, no, però... al portiere. Ma facciamo il conto di quanti tunnel ci hanno fatto questi. No, ma guarda, io il discorso è che io gli regalo il pallone, mi difendo con ordinatamente e poi vado a fargli ma male. Ma loro giocano no, come giocano in Spagna, pallone, con la scuola di tu, Spagna, noi giochiamo con la scuola italiana. Bravissimo. Perché? Perché succede sempre questo? Perché si incomincia, la giochiamo alla pari? Ma che cavolo giochi alla pari? Che hanno un centrocampista che qui sarebbe chiamato il Sivori del 2020. Senti, ma perché? Tu devi giocare alla pari quando devi sperare che giochino alla pari quando tu sei più forte degli altri. Ascolta, io ti leggo questo messaggio. Emiliano Mondoni, che è la persona più bella del calcio italiano, me lo scrive Max. Mi fai un favore? Rispondi tu ad un paio di ascoltatori? Dimmi. No, aspetta, Enrico da Rovigo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo fare un commento su Donnarumma. Che succede? Pronto. Non sento. No, Enrico, la richiamiamo. Giovanni da Bologna, buongiorno. Pronto, buongiorno. Un gran saluto al grande Emiliano Mondonico, al quale faccio anche tanti auguri. Per auguri cosa? Anche a voi da Bologna, mia figlia è diventato avvocato a Bologna. Perciò grande. Grazie e auguri. Quello che lei dice, signor Genta, mi trova spesso d'accordo con lei. Come quello che state dicendo ora, mi avete rubato il tutto. Io non penso che l'Italia potesse competere con la Spagna di ieri sera. Sì, abbiamo fatto un primo tempo quasi all'altezza, ma il secondo, Gagliardini o non Gagliardini, gli altri hanno dimostrato di essere di un'altra categoria. E mi meraviglio di chi fa di chi trasmette su Rai 1, che sembrava che il secondo tempo stesse dominando l'Italia. Io forse ho visto un'altra partita, ho visto che dominava la Spagna. Allora, a mio parere, ma quello che conta è di Mondonico, anzi risponde Mondonico, ci mancherebbe altro. Emiliano? Sì, ti sento. No, hai sentito, sai, Giovanni? Quando parli, quando sei l'opinionista, quando parli e trasmetti l'Italia, cioè, è chiaro che sei di parte, sì. Cioè, diciamo di parte. Sì, sì. Non so se volente o per forza, però è chiaro che devi essere di parte. Sì, anch'io ho sentito ieri sera, sembravamo chissà che cosa, non abbiamo fatto un tiro in porta nel primo tempo dominato. Cioè, non mi confondo perché so che bisogna essere di parte. No, però non è obbligatorio. Non è obbligatorio. Non è obbligatorio essere di parte. No, a me l'Italia al primo tempo non è dispiaciuta, pur non avendo tirato in porta, ma non ha tirato in porta nemmeno la Spagna. La partita si è sbloccata su un gol onestamente bellissimo. Poi c'è stata l'espulsione di Gagliardini, il resto è mancia, secondo me, al di là del palese di Bernardeschi. Ma sai che lì, cioè, il palese di Bernardeschi è stata un'azione individuale, bravo, esatto. con una deviazione, cioè non c'entra niente. Un lampo nel buio. Ecco, è stato così, quando c'è il temporale c'è il fulmine, punto a capo. Però è chiaro che secondo me non dovevamo giocare così. No. Secondo me non dobbiamo avere vergogna di giocare all'italiana. Certo, cioè, no, l'italiana è una scuola calcistica che sta dominando nel mondo europeo con gli allenatori. Ma bravo, perché? Esatto. Perché? Perché? Perché dobbiamo cambiare? Una ragione perché ci sarà. Perché dobbiamo pensare che questo cavolo di tiki-taka è ma guarda, Emiliano, è passato di moda il tiki-taka ormai. Ma loro hanno fatto ma sempre loro, questo. Lasciali giocare così, che vadano avanti a giocare così. Ma se falli sai giocare, affrontarli, mettiti lì con le due punte e fai, ma non vuoi parlare catenaccio, fai 10 la linea, fai 10 dietro la linea della palla e ripartenze. Gioca come ha giocato piede. Emiliano, gioca come ha giocato la Juventus a Barcellona, poi ne riparliamo. Come ha giocato l'Inter di Mourinho a Barcellona. Ma è lì la squadra e italiana, ognuno ha la sua scuola. Senti, c'è anche Sciuraldo da Milano, parliamo anche con lui? col Sciuraldo. Sì, buongiorno. Dimmi, Sciuraldo. Io sono un giovanotto, non sono mica un Sciur. Comunque, giovanotto, mi scusi. Allora, eh, un Sciuret. Mezza età, un quarantenne giovane. Sciuret, milanese. Volevo dire, no? Io ho sentito Di Biagio, dice un grande europeo, abbiamo rilanciato il calcio italiano. Allora, battuto la Danimarca, preso tre scoppole dalla Repubblica Ceca, ha biscottato con la Germania e ha perso con la Spagna. Cioè, io non capisco questo rilancio del calcio italiano. I tre centrocampisti della Spagna, ho tre categorie rispetto all'Italia. E poi una cosa su Donnarumma, che tu dici sempre, Carlo, che al Milan lo coccolerebbero. Sì, magari fino a quest'anno, ma se comincia a prendere 5 milioni all'anno, allora non va più bene il ragazzino coccolato, deve parare per 5 milioni di euro all'anno come top player della squadra. E così ha dimostrato in questo europeo che è un giocatore normalissimo. Ciao, grazie. Ciao Aldo, bella telefonata. Allora, per quanto riguarda Donnarumma, lo ripeto, il pubblico è femmina, alle prime due belle parate torna ad essere l'idolo e si dimentica tutta l'estate. Quanto al resto, Emiliano? Ma il discorso di tutto questo campionato mi trova completamente d'accordo, però è chiaro che anche noi quest'anno, sai, la finale di Champions, la semifinale qui del metterci in evidenza il centrocampo. Loro hanno queste qualità e caratteristiche, noi abbiamo altre qualità e caratteristiche, noi abbiamo gli incontristi, loro hanno quello che costruiscono il gioco, certo. Loro sono i maestri nella costruzione del gioco, noi siamo maestri nell'essere incontristi. Perché dobbiamo affrontarli con giocatori che fanno la loro parte quando costruiscono il gioco? Poi dopo è chiaro che Gagliardini, cioè, mi ha tirato i 4-5, perché Gagliardini doveva già essere così, sì, sì. Cioè, ammonito prima, prima, e dopo lui non, magari si è dimenticato. Però il succo del discorso è che abbiamo giocato come la Spagna. Certo, e se giochiamo come la Spagna, errore capitale, se giochiamo vince sempre la Spagna, 100 volte se una provinciale 100. Gioca come una grande nel campionato italiano, vince sempre la grande. Quando sento andiamo a giocarcela alla pari, non abbiamo timore, non abbiamo qui, non abbiamo là, che palle. Ma se vai a giocartela alla pari con uno più forte, vincono loro. Ma questo è evidente, se gli corri petiti dietro, vincono loro. Prima di salutarti, mi ripeti il nome del macellaio innanzitutto? Turba, aspetta che me lo scrivo. Risponde a questa domanda di un ascoltatore: verresti alla Sampdoria, prenderesti un caffè con Ferrero? Assolutamente sì, anche perché cioè, il rapporto col presidente è un rapporto bellissimo, perché difficilmente il presidente Ferrero, ne capisce più di te. Esatto, perciò quando tu parli col presidente, sì, lo condizioni, lo riporti sul tuo cammino. Vieni, altrimenti che cavolo di allenatore sei? Vieni, cioè, che ti porta a vedere il Beccaccino. Che arriva il presidente, sì, e ti dice gioca così, e tu sì signor. Arriva un presidente e mi dice che gioco così, e io dico dimmi il perché. Capisci, alla fine lui è dalla mia parte, ecco perché prenderei un caffè benissimo con presidente, che chiaramente non può condizionarmi, perché io sono un allenatore, tu sei un presidente, tu sarai più bravo nel fare i conti, io sono certamente più bravo nel far giocare alla squadra. Mi sarebbe piaciuto un caffè anche con gli allenatori che vanno per la maggiore. Sì, sì. Mi sarebbe piaciuto vederti con Berlusconi poi. Emiliano, no, stavolta, diciamo, ma Berlusconi, sai che Berlusconi, mi ricordo che ho fatto un auto a Firenze, cioè a San Siro, col Milan, con l'Atalanta, e nell'Atalanta ci stavano Inzaghi e Lentini. Sì. Alla fine avevo la macchina nel parcheggio sotto, sì, e parto e passa Berlusconi. Io lo guardo, lui ha detto all'autista di fermare la macchina, è sceso, mi ha abbracciato, mi ha detto qualsiasi cosa lei abbia bisogno si rivolga a me, le devo fare i miei complimenti per come ha recuperato Lentini. Questo è stato il mio rapporto con Berlusconi. Consiglio Berlusconi. Prossima volta ti chiedo delle altre cose. Grazie Emiliano, vabbè, ti abbraccio. Oh, chiedimi delle cose però. Sì, che si un posso... certo rilievo, perché di un se certo no, rilievo. Però questa è bellissima. Grazie Emiliano. Assolutamente. Ciao, ti abbraccio, a tutti, ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Speriamo che non turbi. Allora, ascoltiamo la borsa, poi arriva Marco Verinazzo che ci spiega un po' di cose sulla Roma e sull'Inter. Tutti convocati. Musei a cielo aperto, gioielli dell'arte e della natura da vivere, ma anche da preservare. Da Firenze a Venezia, da Roma alle Cinque Terre, ci si interroga. Come conciliare il turismo di massa con il decoro e la sicurezza del territorio e delle opere d'arte? Venezia pensa al numero chiuso, Firenze bagna le strade. E gli altri nel mondo, che fanno? Un viaggio tra arte, natura e rispetto, in onda fino al 30 giugno nel GR delle 7. E un reportage dedicato sabato 1 luglio alle 7:15 su Radio 24 e su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Come potete sentire e anche vedere volendo, mi ha raggiunto Marco Berinazzo al Sole 24 Ore. Eccoci. Ciao Marco. Buon pomeriggio. Oggi. Allora, oggi tanti ascoltatori, 800 24 00 24. Sentiamo Andrea da Parma, cosa vuol dire? Assolutamente. Andrea, buongiorno. Ci sono i cinesi a Parma. Sono i cinesi? Sì. Buongiorno. Che fanno i cinesi a Parma? Ha preso la maggioranza. Ha preso la maggioranza. Sti cinesi dappertutto. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno, buongiorno. Dica. Buongiorno a tutti. Due considerazioni. Una era riguardo alla dichiarazione di Di Biagio, dove sostanzialmente viene fatto un elogio al proprio lavoro, al lavoro del team, ma se si va a analizzare i risultati abbiamo perso due partite su tre, anche in maniera pesante, e siamo passati soltanto per un suicidio da parte della Repubblica Ceca. Quindi vabbè, questo grande successo non so dove sia. E l'altra cosa invece era che ho trovato un'analogia molto simile tra le due partite, tra questa e quella della Juventus in finale di Champions League, dove entrambi, secondo me, sia Allegri che Di Biagio, sono caduti un po' nella trappola degli spagnoli, che palleggiano tanto il primo tempo, si vanno a aggredire alti, poi il secondo alzano il baricentro a metà campo, e o tu hai degli attaccanti che non sono né Higuaín né Petagna, che riescono ad attaccare 30-40 metri in profondità, oppure da lì è un vicolo cieco. Allora facciamo così, questa è interessante, la discutiamo dopo insieme a molte altre cose, dopo il GR delle 15 con Paolo Condò, che ha intervistato Allegri, intervista che andrà in onda stasera su Sky, e magari ci racconta qualcosa su quella notte di Cardiff, poi vediamo se ci sta questa analogia. Io invece voglio sapere a Marco Berinazzo una cosa. Allora, sono le 14:38 del 28 di giugno. Non manca moltissimo per Inter e Roma al 30. Qual è lo stato dell'arte? Beh, come abbiamo raccontato, c'è l'esigenza di fare operazioni in uscita con ricche plusvalenze. Mi sembra che, facciamo che la Roma... Per 50 milioni e 50 milioni, no? No, meno. Allora, la questione è questa, molto rapidamente. L'Inter aveva l'obbligo di chiudere in pareggio al 30 giugno 2017. In pratica si porta dietro un aumento dei costi dall'anno scorso, ma anche un aumento dei ricavi grazie a Suning. Perfetto. Allora, in soldoni doveva fare quanto serve all'Inter? 25 milioni. 25 milioni. E alla Roma? Alla Roma parliamo di 30-35 milioni. Beh, qui è già fatta quella cessione di Salah, quindi... Infatti la Roma sta già pensando a qualche operazione importante che sta facendo in entrata. La Roma ha un problema diverso dall'Inter, perché la Roma ha una situazione, diciamo, di squilibrio dei conti, nel senso che l'anno scorso la Roma è una squadra che incassa 130-140 milioni, l'anno scorso ha fallito l'ingresso in Champions, quindi quel surplus di soldi che aveva dalla Champions è venuto meno, e la Roma ha una rosa che sta smaltendo molto costosa, più di 200 milioni tra ingaggi e ammortamenti. Questo significa che se non vai in Champions vai in rosso, infatti è stata poi sanzionata dalla UEFA. Monchi quale compito ha? quello di ringiovanire la rosa, prendere giovani di prospettive un po' sul modello Napoli, e quindi non giocatori che abbiano ingaggi multimilionari. Questo è il progetto e questo mi sembra che sia, allora, sia realizzato. Ascolta, si legge da tutte le parti che Suninga, a proposito, torniamo sull'Inter, poi approfondiamo il discorso Roma, sarebbero stati stanziati 60 milioni di euro per l'acquisto da parte per l'acquisto dal Genoa di Pellegrini, che è il più giovane marcatore della storia di Pellegrini va alla Roma. Di Pellegrini, più giovane giocatore ad aver mai segnato in Serie A nella gara di addio di Totti, e di Salcedo, anni rispettivamente 16 e 15. Questa è un'operazione all'inglese. Beh, un'operazione in puro stile, diciamo, Suning, nel senso che Suning ha dichiarato fin dall'inizio di voler programmare molto. E se voi c'è una situazione che è opposta al Milan, no? Suning può permettersi di programmare, può permettersi di guardare, diciamo, a lungo periodo. Ora questo mi sembra un po' troppo lungo, nel senso che è chiaramente un'operazione rivolta al futuro, ma su giovani su cui evidentemente si vuole investire per creare una squadra che possa oggettivamente, insomma, competere ai massimi livelli, non solo in Italia ma anche in Europa, di fronte al fatto che per esempio ora l'Inter ha concluso degli accordi di sponsorizzazione con altre realtà cinesi che si muovono nell'orbita di Suning per altri 20 milioni, oltre ai 15 milioni che sono entrati per la sponsorizzazione della Pinettina. Quindi cominciamo a vedere delle azioni mirate di Suning che portano ad aumentare il fatturato. Per quale motivo? Perché così ti puoi permettere spese importanti. Non solo sul cartellino, ma poi anche sull'ingaggio. Quindi mi sembra, diciamo, ci sia una situazione più nazionale. Valutazioni altissime. Skriniar dalla Sampdoria a 33 milioni. Va bene che a Genova siano attaccati al soldo, però 33 milioni per Skriniar mi sembra tanta roba. 20 più Caprari, questo sarebbe il termine dell'affare. Andiamo a Roma da Marco Cherubini di Mediaset. Buongiorno Marco. Buongiorno cari, buongiorno. Io ho alcune domande d'accordo sulle valutazioni. Mi sembra follia. Che mi sembra un po' andato oltre. Avrei, insieme a Beninazzo, alcune domande per te. Innanzitutto, Marco mi diceva che alla Roma servivano 30 milioni, quindi con Salah è già a posto. Adesso con Manolas e Paredes si vede con lo Zenit, ma per Manolas, che sembrava voler andare, c'è qualche problema. Perché? Perché non, insomma, da quello che si capisce il contratto era in rubli e non in e lui vuole gli euro. questa francamente sembra una cosa di altri tempi, no? Cioè, no. Beh, non mi pagare in pecore, ma come la vedi, Perinazzo? Beh, no, l'agente di Manolas evidentemente non è sprovveduto, perché il calo del prezzo del petrolio, diciamo, negli ultimi 2 anni ha determinato una forte svalutazione del rublo, e quindi è meglio, andare in dollari o dollari che siamo più tranquilli. Mentre Paredes ancora non ha deciso, ma non è così convinto di seguire Mancini allo Zenit. Invece, anche perché, insomma, lì c'è una suggestione, diciamo così, che rimbalza da Torino, perché, insomma, non è un mistero che la Juve abbia un interesse. Poi è tutto da vedere se, insomma, l'operazione andrà in porto. Tra l'altro c'era anche una suggestione Borussia Dortmund, insomma, il ragazzo, intorno al ragazzo ci sono tante attenzioni. Resta da capire, perché la Roma, quando ci sono tante attenzioni, invece di tenerli, dà via. Sì, perché la Roma invece... Appunto perché evidentemente sono contratti importanti. È vero che con l'operazione Salah, diciamo, si è sostanzialmente fatta quella plusvalenza che serviva. Però i conti vanno messi in ordine, quindi se arrivano offerte importanti, plusvalenze importanti, si fanno e si va poi sui giocatori che hanno ingaggi più contenuti. Cosa che sta facendo, risulta, Monchi con arrivi di giocatori giovani. Sta applicando il metodo Siviglia, insomma. Goran Lons, che giovane non è, ma può essere utile alla causa. Marco, ascoltiamo un attimo insieme il traffico, poi un altro paio di domande per te. Una delle quali è: cosa farà Totti? Sta tornando alle vacanze. Così ti prepara. Va, pensaci bene. Traffico. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia. Sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta Convocati. Allora, Marco Verinazzo qui con me in studio, Marco Cherubini di Mediaset al telefono. Totti sta per tornare dalle vacanze in Grecia. Marco, guarda, Cherubini, allora andiamo fa? Sulle cose sicure. Allora, tra due giorni torna scade il contratto scade il contratto di Totti da calciatore con la Roma. Sì. Dovrebbe partire dal 1 luglio questo accordo che è già fissato da parecchio tempo, di 6 anni da dirigente a 600.000 euro netti a stagione. Mi sembra che fosse, fosse stato fatto ancora prima da Sensi, no? Dalla famiglia Sensi, dalla famiglia perché Sensi. Era un modo per spalmare emolumento che in quel momento la famiglia non poteva saldare a Totti. La logica dice che se questa operazione era così conseguenziale, l'accordo sarebbe già trovato. Il problema è che Totti non è convinto non solo dei ruoli all'interno del club, ma anche dei protagonisti del club. Insomma, io credo che non sia un mistero il fatto che con Pallotta il rapporto sia proprio ai minimi termini. E allora lui è un po' così, nell'incertezza generale su quello che deve fare decida, da grande. Che si decida però, con però devo dire onestamente che, voglio dire, poi alla fine è anche un po' un circo mediatico, nel senso che poi saranno pure fatti suoi se decide oppure no. Non è che dà fastidio a qualcuno se poi diventa dirigente della Roma il 15 di luglio o il 30 di luglio. Sì, no, la Roma ha deciso di affrancarsi da questa storia con Totti. Ed è chiaro che la prosecuzione del rapporto è legato anche a delle difficoltà di rapporti, scusate il gioco di parole, tra lo stesso Totti e questa dirigenza. C'è un ascoltatore che mi scrive 600.000 euro per fare lo stagista, il resto non posso leggerlo perché siamo in fascia protetta. No, ma in realtà, attenzione, è vero, è una valutazione assurda, però ripeto, quelli erano dei soldi che la famiglia Sensi doveva a Totti. Ci fu questo accordo di spalmare avrebbe smesso da dirigente. È successo anche con Montella. No, guarda, Montella fece l'allenatore della Roma al primo anno con dei soldi che la società doveva a lui da calciatore. Questo è chiaro, c'è stato un lascito della famiglia Sensi a Pallotta che si è trovato lì, ma questo l'abbiamo già detto ai tempi del passaggio di mano. Certo, Marco. Ti ringrazio. Grazie a voi, un abbraccio, buon proseguimento. Grazie Marco Cherubini, hai capito? Questo lo sapevamo già, no? Sì, Totti dovrà decidere, insomma, ci sono tante richieste in giro per il mondo, insomma, alla Roma farebbe comodo, insomma, come ambasciatore, come bandiera, insomma. Dipende che vuol fare. Restiamo sull'uscio di casa Totti, insomma, nel senso che alla fine è veramente una scelta molto, molto personale. Io credo che non abbia poi tutti i torti l'ascoltatore. In questo momento, se vuol fare il dirigente, deve fare lo stagista. Non è che può diventare, non ci si inventa. Quello è evidente anche perché, se andiamo a guardare l'organigramma della Roma, i ruoli sono molto ben definiti: c'è Gandini, c'è Baldissoni, c'è Monchi. Quindi, diciamo, non è che si possa spezzettare il potere dirigenziale e di conoscergli una qualche forma di autonomia a Totti in questo momento. E in questo ha ragione Maldini quando dice volevano una bandiera in società, per fare la bandiera che sventola fuori dalla sede a me non interessa. Piuttosto, Marco, andrei sul... Mentre io sto leggendo, Banega torna a Siviglia, quindi 6 milioni, no? Plus valenza da... Sì, intanto il tesoretto. Scusa, insomma. Ma tornando all'Inter, ma come fa a racimolare quei soldi in un giorno e mezzo? Beh, ci sono una serie di operazioni che andranno a chiudersi da qui al 30 giugno. Sai, poi il discorso è che magari sono Rosolini è riuscito a fare qualche altro contratto che si annuncerà, perché il problema, Carlo, è semplicemente di rapporto tra entrate e uscite. Sì, se al 30 giugno aumenterà il fatturato in maniera considerevole, perché l'obbligo, la UEFA non ti dice che devi fare 30 milioni di plusvalenza. No, la UEFA ti dice che devi arrivare a zero. Quella era la via più semplice. Mi sembrano tranquilli perché manca un giorno e mezzo, non hanno ancora venduto nessuno. Vabbè, senti, abbiamo il tempo invece di inquadrare l'argomento di ieri, di tornare sull'argomento di ieri, cioè i Della Valle che mettono in vendita la Fiorentina. ufficialmente. Sì, più che io l'ho letto quel comunicato più che come una messa sul mercato del club, perché se n'era già discusso di questo, ma come l'ennesima dimostrazione di un'insofferenza a questo punto anche della famiglia rispetto alla piazza e rispetto a una situazione che, se vuoi, è paradossale, perché il problema è tra le aspettative della piazza e quello che della Valle hanno sempre detto negli ultimi anni, cioè gli hanno sempre detto la Fiorentina deve essere autonoma finanziariamente. Certo. La Fiorentina non fattura più di 100 milioni, certo, arriva a 90 milioni, certo, quindi evidentemente è una società medio piccola, magari i tifosi la Fiorentina si offendono, ma 90 milioni di fatturato questo se lo confrontiamo a livello europeo, ecco, esatto. Il problema era: cosa facciamo per far aumentare il fatturato? C'era la questione dello stadio, che è faticosamente arrivata avanti con l'autorizzazione del comune, il riconoscimento dell'interesse pubblico. Io sono come San Tommaso fino a quando non lo vedo, so la tua idea sugli stadi, però in ogni caso era una cosa avviata ed è un percorso per iniziare a aumentare questo benedetto fatturato. Ora è evidente che la scelta della Valle è molto precisa, la tifoseria ha altre aspettative, ripeto, però la situazione è questa: o la Fiorentina trova il modo di fatturare di più, oppure è difficile avere o trattenere certi giocatori. Allora, correggimi se sbagli, della Valle, io vado sempre al sodo, sì. In quel comunicato dicono: signori fiorentini, se volete la vostra Fiorentina è qua. Benissimo. Arrivi chiunque, anzi Fiorentini veri, ovvero chi ha i soldi, la Fiorentina è qua. Esattamente. Se la volete e volete farle vincere lo scudetto, mettete i soldi. Messaggio Carlo è: non teniamo in ostaggio noi la Fiorentina. Esatto, non teniamo noi in ostaggio la Fiorentina. Se c'è qualcuno, venga a prendersela serio, con un progetto sostenibile, perché chiaramente non vogliono dare il club in mano ad avventurieri, e sappiamo quanti girano intorno alle squadre italiane. È vero anche che Parma ne sanno qualcosa, esattamente, se i cinesi comprano l'Inter, il Milan, e ripeto, da poco hanno anche la maggioranza del Parma, con una società tra l'altro seria, non è il caso del Pavia, diciamo, di qualche anno fa. Sul Pavia potrei dire delle cose essendo di lì, però comunque va bene, lascia stare, diciamo, volevo dire che non era una situazione al limite, borderline, ma in ogni caso Firenze e la Fiorentina, per quello che rappresenta la città, per quello che rappresenta il club, sicuramente possono rientrare nei progetti di espansione del calcio cinese, e quindi da questo punto di vista può essere magari un messaggio anche mandato a qualche investitore. Non credo che ci siano già trattative, perché no, sai, se ci sono trattative non fai quel comunicato. Mi sembra un comunicato più che altro di dialogo con i fiorentini. Marco, io ti ringrazio, continua. Grazie a voi. Ci vediamo presto, naturalmente, perché in ferie non ci andiamo mai. Continua ad ascoltarci, anche perché dopo il GR, se hai tempo. Assolutamente, vado su e dopo il GR arriva Pardo, ma arriva anche Mister Condò, che ha intervistato Allegri e che ci racconta tutta la verità sulla finale di Cardiff, primo. E in secondo luogo c'è un argomento che ti interessa da vicino. Sai che oggi ricorre un anniversario per te, tifoso del Napoli? È un anniversario oggi per me, tifoso del Napoli. Lo sai, non lo sapevi? No, non lo sapevo. Te lo dico io. Che anniversario è? Anniversario del giorno in cui arrivò Mare Chiaro, 10 anni fa. Ah, certo. Marek Hamšík, 10 anni fa, come oggi, arrivava a Napoli dal Brescia. Aveva 19 anni, insieme alla Vezia. C'è una meravigliosa foto, poi te la fa vedere De Luca, napoletano pure lui, in cui c'è la presentazione di entrambi i giocatori, Lavezzi con la giacca, col vestito completo, e Hamšík in infradito bianche. Meraviglioso. Grande, meraviglioso. Grazie Marco Benazzo. Grazie a voi. Grazie, a prestissimo. Torniamo dopo il GR. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo, tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Ma alla fine la partita è stata indirizzata da cosa? Dal primo gol di Ronaldo, che nel vostro periodo migliore vi ha costretto comunque a inseguire, oppure dal fatto che 2-1 e 3-1 sono stati così ravvicinati? Più il 2-1 e 3-1 ravvicinati, perché dopo il gol di Ronaldo, dopo 5 minuti abbiamo pareggiato e abbiamo continuato a spingere. Direi è una partita che ci servirà di lezione, soprattutto nella gestione delle partite. Le partite non si possono giocare tutte a 100 all'ora, non potevamo pensare di fare il secondo tempo come il primo, perché il primo tempo abbiamo spinto molto, e quindi bisogna avere più padronanza nel gioco e conoscere meglio i ritmi della partita e i tempi di gioco della partita. Allora, questo è uno stralcio dell'intervista che Mister Condò ha fatto a Massimiliano Allegri, che andrà in onda in versione integrale oggi alle 22 e alle 24 su Sky Sport 1. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Bene, adesso lo torchiamo, Mister Condò, che è qui con noi in diretta, perché vogliamo sapere tutta la verità in anticipo sulla finale di Cardiff. Paolo, buongiorno. No, ciao Carlo, ciao Pier. Ciao. No, ti devo deludere, io so cosa come ti riferisci, Carlo, però l'intervista è stata fatta il 14 giugno, mentre la questione delle roncolate eventuali che ci sono state nello spogliatoio e del 17. No, aspetta, le roncolate abbiamo anche quel passaggio lì, lo ascoltiamo. No, cioè la domanda è stata fatta sul caso Bonucci, sì. Ma si riferiva al caso Porto. Bonucci prima del Porto. No, ma certo. alla fine, Paolo, sì. Parlando con Allegri, ti sei fatto un'idea di ciò che è successo in quella partita? No, mi sono fatto l'idea che probabilmente la Juventus è arrivata a quella gara con il suo reparto più debole, e cioè il centrocampo, in grave affanno anche fisico, e che la ragione è stata questa. Dopodiché in quella situazione sarebbero dovute succedere tutta una serie di cose riguardanti la personalità dei giocatori della Juventus, che invece non sono successe. Lì davanti Dybala, lo sappiamo, per via dell'ammonizione dopo pochi minuti, Higuain perché è un grande cannoniere ma nelle finali ormai è dimostrato fa fatica. Insomma, sono successe tutta una serie di cose per cui stai giocando una finale contro il Real Madrid, quindi non può succedere niente di negativo se la vuoi vincere. Sono cominciati a saltare alcuni ormeggi e via via ognuno di questi ha trascinato giù anche gli altri. La stessa difesa quella sera, secondo me, io per esempio sul passaggio di Carvajal a Ronaldo nel gol dell'1-0, io vedo Chiellini che abbocca un po', che non guarda Ronaldo ma arretra un po' troppo lasciando il tiro libero. Poi c'è anche la deviazione di Bonucci e la sfiga e tutto quello che vuoi, però sono successe tutta una serie di cose. Dopodiché è assolutamente plausibile che nello spogliatoio, nell'intervallo, ma è una cosa che succede in maniera normale, sì. Secondo me c'è una tendenza a complicare le cose. La sostanza è molto, molto semplice nella sua drammaticità sportiva per la Juve, che Real ha giocato meglio, che nel calcio, soprattutto nelle partite secche, poi c'è la prestazione comunque delle variabili che sono variabili pronosticabili. Però io e te mille volte abbiamo detto c'è modo e modo. Le roncolate, che secondo me sono presunte, nascono da un desiderio giornalistico di trovare un senso a un secondo tempo onestamente incomprensibile. Quindi poi io, di fronte a una partita del genere, tutti ci siamo detto ma che sarà mai successo in quel secondo tempo, in quell'intervallo? La spiegazione che mi ha dato Allegri, che ha citato appunto i problemi fisici ed energetici di Khedira e di Pjanic, lui praticamente disse al Real Madrid ha sentito l'odore del sangue. Come i grandi squali ha sentito l'odore del sangue, e in quel momento lui dice già negli ultimi 5 minuti aveva capito, del primo tempo aveva capito. Non è stato solo l'intervallo, già al 40° del primo tempo il Real Madrid aveva capito che stavano cedendo lì a centrocampo, quei due ancoraggi e ha cominciato a prendere il sopravvento. Certo, infatti la mossa decisiva è stata avanzare i due centrocampisti centrali e farli a pezzi, pezzi la Juventus. Sì. Ragazzi, da una sconfitta all'altra, Pardo e Paolo Condò, quella sempre con gli stessi benedetti spagnoli, quella di ieri sera con Donnarumma, che vabbè... Sai che sono due sconfitte molto simili, secondo me. E anche un ascoltatore prima ha trovato qualche analogia. Sì, sì, molto simili, nel senso ha vinto in entrambi i casi la squadra più forte. Ha vinto e in entrambi i casi nel primo tempo la squadra italiana, l'Under 21, aveva dato la sensazione di poter tenere, di poter reggere bene il confronto. Ma quando c'è stata l'accelerata, infatti la domanda più vigliacca che faccio ad Allegri nell'intervista è: ma quanto ti piacerebbe avere una volta dalla tua parte Messi e Ronaldo, che sono due suoi rivali storici, visto che Messi anche gli ha portato via l'altra finale di Champions, e così, e insomma naturalmente è una cosa che a lui piacerebbe avere a disposizione, perché poi alla fine c'è quando Marco Asensio, il portentoso Dani Ceballos, ieri sembravo il suo agente a calciomercato, quando tessevo le sue lodi dicendo compriamolo prima di mezzanotte, stamattina ho visto un paio di tweet dove pare che il Real Madrid in realtà sia già molto avanti. Purtroppo è il favoloso Saul. Ecco, quando questi tre giocatori hanno alzato il ritmo, Gagliardini, che secondo me esce... aveva fatto un bel europeo Under 21. Guarda, la partita secondo me è finita nell'istante dell'espulsione di Gagliardini. Aspetta, fammi sentire, Paolo, fammi sentire se Pardo condivide questa tua analisi. Io condivido innanzitutto l'analogia con Cardiff, nel senso che poi è un'analogia molto più frequente di quello che si possa pensare. Quando c'è una differenza comunque fra due grandi squadre, a una è più forte dell'altra, spesso la differenza viene tanta, questo vale anche per altri sport, ed è quello che si è visto a Cardiff, ed è quello che si è visto ieri sera, cioè la Juve e l'Italia sono due squadre ottime, ma semplicemente non sono sullo stesso livello del Real Madrid e della Spagna. Questo è, ripeto, poi complichiamo spesso il calcio con algoritmi vari, ma sì, insomma qui è una roba molto semplice, qui è molto molto tranquillo il discorso, cioè noi siamo bravi, ma chiaramente a quel livello lì facciamo fatica. E poi sicuramente l'espulsione di Gagliardini ha condizionato la partita, forse non è stato quello il momento scatenante, è stato il 2-1 il momento scatenante. Perché tu eri riuscito a risalire la corrente con Bernardo. Sì, però Paolo, non ti dava l'impressione, a me dava l'impressione di un lampo nel buio, ne parlavo prima con Mondonico, il pareggio di Bernardeschi, perché con la Spagna più forte, con l'inferiorità numerica, pareggio di Bernardeschi e poi indovai. Cosa avrebbe pesato, però è chiaro che finché stai 1-1 con l'inerzia positiva del pareggio che hai trovato, con la positività che ti dà il gol del pari, comunque pensi positivo, però è chiaro che il lasso comunque nemmeno piccolo di partita, eventualmente anche supplementare con l'uomo in meno, avrebbe pagato. Certamente, però comunque sull'1-1 tu sei a un gol dalla vittoria. Sì, quello sì. Sei un gol dalla vittoria nei 90 minuti, per carità. È l'unica cosa che puoi sperare. In quell'occasione l'Italia era più forte della sua avversaria, però il famoso Italia-Australia, ottavo di finale del mondiale che poi abbiamo vinto, ecco, eravamo in 10 contro 11 per tutto il secondo tempo e probabilmente hai passato il turno, perché c'è stato alla fine il rigore su Grosso e la trasformazione di Totti. Se dovevi andare a giocare in 10 contro 11 pure i supplementari, magari la storia sarebbe stata diversa. Quella volta ci disse bene, cioè, c'era l'Australia, però l'Australia non era ovviamente la Spagna di ieri. Senti, cosa hai visto in questo Europeo Under 21? Cosa avete visto, Paolo Condò e Luigi Pardo, in questo Europeo Under 21? Paolo? Ma io ho visto, allora, naturalmente questi tre fenomeni spagnoli, cioè tre giocatori che... Marco Asensio mi fa andare giù di testa, io non so voi, cioè divento pazzo a vedere come gioca. Poi i tre gol li ha fatti Saúl, che all'Atletico Madrid gioca alle finali di Champions già da 2-3 stagioni, ecco. Però Marco Asensio mi fa andare fuori di testa. E poi mi sono chiesto, per esempio, perché Rashford non ha giocato con gli inglesi, perché secondo me gli inglesi con Rashford potevano essere competitivi, per più di quanto sono stati, insomma, per la vittoria finale. E diciamo che mi ha confermato il fatto che la nuova generazione di talenti italiana è molto più ricca e promettente di quelle passate, e quindi di questo siamo felici. Però attenzione, anche negli altri paesi stanno o continuando a crescere o stanno rinascendo dei ragazzi di qualità. Ho l'impressione che il calcio dei prossimi 10-15 anni sarà più bello e più divertente, perché ho visto tanto talento in giro. Pierluigi? Delle semifinali under 21, l'Europa under 21 con Spagna, Germania, Inghilterra e Italia sembrano veramente quasi tipo le nomination, no? tipo il sistema americano delle franchigie, dove quasi per diritto divino vengono assegnati dei posti. È dimostrazione del fatto che poi le squadre calcistiche tradizionali hanno la loro forza. Della Spagna ha detto tutto Paolo, io penso che veramente è una miniera continua di talento, di qualità, di positività, di psicologia positiva anche nell'affrontare queste partite. Insomma, l'onda lunga della Spagna continua, anche se poi a livello di nazionale si è fermata negli ultimi anni, però è veramente una scuola, un sistema, Asensio sicuramente, Stoglinges, ma arrivo, cioè, sono quasi poco sorpreso, cioè, nel senso che è talmente forte, lo diciamo dall'inizio. L'Italia esce in maniera dignitosa, qualcosa in più speravamo che potesse succedere, sinceramente io lo speravo. Mi sembra l'inizio, noi siamo calcisticamente un paese convalescente, ma un paese che è uscito dalla convalescenza, che sta uscendo dalla convalescenza, che sta ottenendo dei risultati comunque importanti. Quello che ha fatto la Juve in questi anni a livello di Champions League è certamente importante e positivo. Qualcosa si è visto, secondo me si comincia a intravedere anche a livello delle altre. Tra un anno c'è il mondiale. Non è un mondiale dove arriveremo da favoriti, comunque, sarà. Credo però che in prospettiva fra 4-5 anni torneremo a essere un paese sì, la Spagna più che altro ha finito una generazione di giocatori, ha finito una nazionale. Noi abbiamo l'anno scorso, l'Italia di Conte ha messo il cappello su questa fine di una generazione, un'altra è già pronta. Questo sì, è il senso del discorso, sì. No, Paolo? Però guarda che, certo, è verissimo. Però io mi porto a casa di buono per l'Italia da questo europeo una legge generale del calcio, che è quella che il giovane talento nel grande appuntamento, ecco, devi guardare che cosa fa il suo primo grande appuntamento anche per capire quale sarà il suo futuro. In questo senso giocatori come Bernardeschi o come Pellegrini mi hanno rincuorato, sì, perché sì, il loro certo. primo grande appuntamento non hanno tremato, ma hanno giocato, ecco, ovviamente su Donnarumma, che è ancora più giovane, pesa il discorso dei casini del mercato. Poi possono venirci a raccontare quello che vogliono, sì, Paolo, esatto, quello, ripeto quello che ho detto prima, se è vero come ci raccontano Di Biagio, Calabria eccetera e tutto l'entourage azzurro, le voci di mercato in questo europeo non hanno pesato, allora c'è da essere preoccupati, perché Donnarumma 10 tiri in porta ha beccato 6 gol con errori. Quello non è talvolta clamorosi. Sappiamo che lui è molto più forte di quello che ci ha fatto. Dai, abbi pazienza. Grazie Paolo, ti vedo stasera. Ciao a tutti, ciao. Noi ci vediamo tra un 48 ore, mi sa. 48 ore? Ci vediamo tra 48 ore? È un appuntamento ufficiale? Non abbiamo un appuntamento a Ischia. No, ma io non vengo a Ischia, però no, magari ci passo, però ci vediamo forse prima di 48 giorni sul campo da golf, perché ormai abbiamo un po' ormai qualità. No, diciamolo, Paolo Condò quest'anno è... Grazie a tutti, io fra 48 ore vi do appuntamento a questo microfono, grazie ragazzi. Posso dire una cosa in 5 secondi, visto che Paolo l'ha tirato fuori? Io ho avuto la fortuna di vincere l'anno scorso, vincere il premio Beppe Viola, Paolo se lo stramerita. Sono quelle circostanze, il premio Ischia è un premio bellissimo, in cui al netto di tutte le critiche anche giuste che si possono fare nei confronti della nostra categoria, non faccio un discorso corporativo, si sente parte di un gruppo di persone in tutto il mondo che si occupa anche spesso di cose molto più gravi e molto più serie di noi, e insomma un certo senso di fierezza quando ti trovi a essere premiato assieme ai reporter che raccontano la guerra, veri, Pierre, ecco. comunque ti senti parte di una ragazzi, di una famiglia, noi facciamo parliamo di queste cose e ci divertiamo un mondo. Comunque complimenti a Mr. Condò. Grazie. Ciao Paolo, grazie. Ciao. Allora, adesso invece vorrei parlare con Pardo e con un graditissimo ospite. che è, tra l'altro, ad Ascoli per una premiazione, guarda caso, di un anniversario che secondo me non sai neanche tu, lo sa solo De Luca. Zalaceta per Hamsik, Hamsik in aria, Hamsik! Che gol di Hamsik! Pia in mezzo, c'è Dennis, Pia entra in mezzo a due difensori, ancora Pia, il cross per Dennis di testa, Hamsik! E il gol che riporta il Napoli in Europa! Palla perfetta per Hamsik! 100! Hamsik! 2-0 Napoli, non ha scelto qualcosa di banale per il suo centesimo con la maglia azzurra. Ah, mi piace, da pizza a frittatine a mozzarella, sono unica. Ancora Giorginio che vuole inventare un gran pallone per Gagliacon, Gacciapsic, zona tiro, prova il sinistro! Marek Hamsik! Il vantaggio del Napoli! Apre così il secondo tempo! Lo slovacco porta avanti il Napoli! Chilavochi sbaglia tutto, arriva Gagliacon, c'era Hamsik, Gagliacon, Hamsik! 3-0! Sono tre! Tre volte Napoli, due volte Hamsik! Napoli ha il tempo per reagire. Hamsik, zona tiro per lui, prova la gran botta, rete, eccolo! Eccolo il capitano! Rete, Hamsik, il colpo del fuori classe! Sono contento di essere riuscito a fare quello che sono riuscito a fare questi anni e voglio ancora migliorare e portare Napoli il più alto possibile. Allora, 10 anni fa, come oggi, Marek Hamsik firmava per il Napoli insieme a Lavezzi. L'ho detto prima, come erano vestiti i due, andate a vedere la foto d'archivio. Maurizio De Giovanni, buongiorno. Buongiorno a tutti. L'ultima... Complimenti per la bellissima clip audio che ha dato delle grandi emozioni a tutti voi. C'era anche la voce di Pardo che ha raccontato diversi gol di Hamsik in questi anni, Pierluigi. Sì, c'è. C'è il gol di Cavani con lo Steago nel resto della squadra, cioè, sì. Io l'ho letto da un paio d'anni. L'ultima grande bandiera, Maurizio. Sì, io credo che la presenza di Hamsik, dei pochissimi come lui, abbiamo da poco salutato Totti, salutato momentaneamente, perché poi campioni come lui non se ne vanno mai. In realtà è così anche per Marek. Sono quelli come loro che mettono in difficoltà poi i procuratori e i giocatori nel mondo, perché il calcio, ad onta di tutta la montagna di soldi che lo sommerge, rimane un fatto di passione. Adesso... perché la passione è quella che genera tutto questo denaro. Ora e la passione sì, è anche il legame fortissimo che c'è per un territorio e per una squadra. Del resto Hamsik è il capitano di una squadra, l'abbiamo detto molte volte, identitaria. Il Napoli rappresenta una città, rappresenta veramente una regione. Credo che Hamsik sia diventato acutamente, molto saggiamente, ed è stato anche amministrato da Raiola in passato, ricordo. Sì, che lo volevamo portare via. Esatto, è stato molto saggiamente in grado di diventare veramente, si avvia a essere il giocatore che ha segnato più gol nella storia del Napoli. Non è soltanto un discorso di affezione, è anche il discorso di valore tecnico enorme di un giocatore che avrebbe potuto giocare dovunque. Sì, questo certamente, invece si è legato al Napoli e quando lo voleva portare via ha detto no grazie, io rimango qui, ciao Mino. Esatto. Maurizio, esatto. Ti ringrazio, sei ad Ascoli, no? Per ricevere un premio. Sono ad Ascoli. Per ricevere un premio. Sì, sì. Questa è, l'estate è un po' la stagione dei premi, no? Hai ancora posto. Seguono i festival e gli incontri. Serve un altro scaffale. Posso dire una cosa? La cosa bella è che il concetto di bandiera è veramente bello anche quando non... Cioè abbiamo celebrato Totti esattamente un mese fa o qualcosa o giù di lì, no? E Totti è una bandiera di uno nato in un posto con una squadra del cuore che ci gioca per 25 anni ed è una storia fantastica, però devo dire la verità, è altrettanto bella la storia di chi di chi viene da fuori, cioè tante volte noi ci siamo imbattuti in questi racconti di Mare Kamsic che vive sul litorale Domizio, che va al mare da quelle parti, che insomma sì. da molto lontano è arrivato ma si è innamorato. Poi la parola chiave secondo me è quella che dice Maurizio, cioè il Napoli è una squadra identitaria, come certo. lo è la Roma, come lo è la Fiorentina, certo. come lo sono molte altre squadre, cioè è una squadra che ha dentro di sé, non che le altre non ce l'abbiano, però magari altre squadre sono quelle più trasversali, con delle chiaro, Napoli è un'essenza, no? È un sentimento, una squadra che ha vinto relativamente poco, una squadra che spesso a livello di popolo ha subito degli insulti assurdi, quindi è chiaro che è qualcosa di diverso. Hamsik ha incarnato questo spirito partendo da molto lontano. Partendo da molto lontano, a 16 anni partendo da casa sua e andando al Brescia, vivendo poi questa storia. No, cioè, se mi consenti, giusto un secondo, io volevo ricordare che quando fu presentato Hamsik insieme alla Vizzi, ci fu una contestazione. Sì, i tifosi contestarono il basso livello del mercato dell'epoca. Questo esatto, dice un sacco di cose. Vi ringrazio. Aspetta, andiamo avanti domani. Maurizio De Giovanni, grazie. Pier, ci sentiamo grazie domani. A voi, un saluto, con te ci sentiamo domani, ovviamente dalle 14 alle 15. A te, che succede con i telefoni? Tutti convocati. Io ringrazio ovviamente Giorgio De Luca, il nostro autore, Edoardo Lavezzari in regia, Roberta Frisani in redazione, Roberta Frisani in regia. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.